RadioTube Social Village di Marta Cagnola. Ma che meraviglia tornare insieme in diretta il sabato pomeriggio. No, non sono ironica, sono davvero contenta di tornare a occupare le due ore di diretta del sabato pomeriggio. Abbiamo fatto un pochino di vacanza, ci siamo riposati, abbiamo scaldato i motori, anche perché adesso arriva davvero una stagione con un sacco di novità, con un sacco di nuove serie TV, la stagione dei premi, tante uscite discografiche, poi c'è anche il teatro. Insomma, parleremo di tantissimi argomenti e già da questa prima puntata del 2020. Voi siete già capaci di scrivere 2020 o vi confondete e scrivete ancora 2019? No, perché io vado avanti almeno fino a marzo a scrivere 2019. Vi ricordo il numero per i vostri SMS e WhatsApp: 349-238-6666, mentre per i miei social Twitter e Instagram, soprattutto per le stories, perché sapete che mi divertono moltissimo, @ Marta Cagnola. Vabbè, abbiamo detto tutto, tutte le istruzioni per l'uso le abbiamo dette, che siamo in onda per due ore, che la prossima è l'ora di RadioTube Social Network, che ci ritroviamo domattina dopo il giornale radio delle 7 con RadioTube l'intervista. Sì, abbiamo detto tutto, quindi io comincerei con una novità televisiva che però ha tanto tanto sapore di cinema. Ecco qua. Tutti devono prontamente sapere chi è il Papa. Questa non è vanità, è necessità. Sir John è una persona magnifica, ma la sua santità è decisamente più pericolosa. Sono indolente, sono presuntuoso, sono irresponsabile, sono vanitoso. Ha terminato, Santo Padre? Perché non è abbastanza. Esiste una possibilità che Pio XIII si possa svegliare? È ancora vivo, anche se non lo sa. Non ha importanza, ora sono io il Papa. Allora, ora sono io il Papa, non ha importanza. Questa era una clip ovviamente da The New Pope, che è partito ieri sera su Sky con un buon risultato in linea con The Young Pope, 500.000 spettatori medi. Ma sapete che è un po' difficile calcolare, perché poi andranno aggiunti tutti i dati della piattaforma dell'on demand. Ormai il palinsesto non è più quello di una volta. Io devo dirvi la verità, a me è piaciuto molto, l'ho trovato estremamente interessante, estremamente intrigante, poi sono innamorata di uno dei personaggi, se volete poi vi dico di chi. Però c'è tanta voglia di papi in questo periodo, perché non è l'unica serie o film che c'è in questo momento sugli schermi. Chissà cosa ne pensa uno dei nostri amici di RadioTube, il primo ospite del 2020, Gabriele Niola. Ciao Gabriele. Ciao Marta. Allora, sta voglia di papi, tu come la interpreti? Allora, secondo me è proprio una roba che ha lanciato Sorrentino, cioè, perché non sono serie o racconti di papi come una volta, c'è questa voglia di papi, c'è questa voglia di papi pop. Sì, papi pop che... e papi un po' trasgressivi, un po', che dire, sì, molto che al limite. Diresti. Diciamo sì, che non diresti. Sì, che non diresti, sì. Perché gli altri papi che orbitano sulle piattaforme e sull'on demand sono quelli dei due papi, sono veri, perché sono Benedetto XVI e Papa Francesco, a confronto, cioè Anthony Hopkins e Jonathan Pryce, e anche lì, benché sia una cosa vera, quindi ci sia poi vera, cioè, sai, sono cronache. Allora, diciamo che i personaggi sono veri e i dialoghi tra loro, gli incontri tra loro sono ovviamente immaginati. Immaginati, diciamo, però a partire dal fatto che veramente si incontrarono, veramente stettero tre giorni, insomma, a colloquio, poi chiaramente uno si inventa le cose, però c'è un po' questa passione per guardate che il Vaticano non è come ve lo immaginate. Sorrentino lo dice spesso, che lui nell'indagare le sue cose per Young Pope e New Pope ha scoperto che non è come le dipinge lui, che lui esagera sempre, però insomma comunque sono molto più persone contemporanee, moderne e in un certo senso pop di quello che non immaginiamo. Devo dire che c'è un tocco di grande bellezza, ancora più che nello Young Pope. In The New Pope c'è un tocco grande bellezza, eh? Ma sicuramente, ma c'è quell'idea che a me piace molto di Sorrentino, che lui è molto bravo a dipingere, del potere immobile. Come sapete, se avete visto la prima stagione di Young Pope, il Papa giovane, cioè Jude Law, quello che era il protagonista, è entrato in coma ed è fermo, immobile, in coma col respiratore, e mettono un nuovo papa che sarà John Malkovich. Eppure questo papa fermo, immobile, in coma genera un culto, riesce comunque ad essere potente, ad essere atteso, a fare cose anche se non si muove, non può fare nulla, che è una cosa fighissima. La cosa, cioè il personaggio che a me fa impazzire più di tutti è il Cardinal Voiello di Silvio Orlando. Allora, io sono... La seconda stagione ha un sacco di spazio finalmente. Arrivano applausi di là dal vetro, perché anche il nostro Edoardo Lavezzari è un fan evidentemente. Beh, è un personaggio, cosa diciamo, del personaggio disegnato da Sorrentino e dell'interpretazione di Silvio Orlando. Sì, ma è una roba stupenda. Allora, per chi non l'avesse visto, è il segretario di Stato, quindi è una persona, il numero due, diciamo, del Vaticano, ma in realtà è il numero uno, perché lì è il segretario di Stato più longevo della storia del Vaticano. È potentissimo e gli piace essere potente, gli piace esercitare il potere, gli piace l'intrigo di corridoio, ed è lui poi alla fine a nominare i papi, perché è lui che agisce, che fa mette le voci di corridoio, che li fa dimettere. Insomma, è una figura straordinaria. Ed è Silvio Orlando con il cellulare con la cover del Napoli Calcio, che si legge la Gazzetta, il Corriere dello Sport con i titoli del Napoli. Cioè, con quel neo sulla guancia, un'idea geniale. Devo dire che poi incarna il potere, ma non incarna il male, perché è divertente, perché gli piace il gossip, gli piace tramare, ma in maniera abbastanza giocosa, in maniera quasi infantile. Io trovo che sia un personaggio dipinto benissimo. E poi Silvio Orlando, che recita in inglese, cioè, per sempre, sì, Silvio, allora, fallo per noi, perché è qualcosa di... perché allo stesso tempo ha quest'aria non convinta e convinta e soprattutto che si prende in giro mentre recita. La vera idea di Sorrentino è stata questa cosa di far recitare Silvio Orlando in inglese, è una cosa da morire letteralmente. Io poi ho visto tutti gli episodi della ti stagione. Confesso, anch'io l'ho già vista tutta. Quindi sai che lui c'ha un'evoluzione straordinaria. Adesso non è che siamo raccomandati, è che è un po' il mestiere, quindi abbiamo già scoperto tutto. Siamo costretti, io non l'avrei mai voluto, mi hanno costretto, sì. è vero, e devo dire che sono davvero entusiasta. Invece, per quanto riguarda i due papi su Netflix questa volta, ma io non... Tu sei più dubbiosa. Io sono più dubbiosa. Tu cosa ne dici di questa storia romanzata? Allora, i due papi secondo me sono molto ben interpretati. Poi c'è questo Hopkins che sembra veramente un sosia. Vabbè, anche se questo poi è il weekend di Hammamet, e quindi come interpretazioni mimetiche siamo a posto. Però, insomma, tu cosa ne dici di questa storia immaginata dei due papi reali? Allora, questo film si chiama I Due Papi, è un film di parola proprio, cioè è un film di due persone che dialogano per tre giorni e si scontrano due visioni opposte. Non solo, ovviamente si parte da due visioni opposte di religione e di chiesa, ma il bello del film è che poi sono anche due visioni di mondo, di vita opposte, e si scontrano con dei dialoghi ben scritti e ben recitati. Questo è sostanzialmente, se vi piace questo genere di cose, il piacere del film. Poi c'è un altro piccolo livello che a me piace un sacco, è che questi sono due personaggi molto diversi. Uno, Papa Benedetto XVI, austero, per dire, diciamo una parola che lo descriva, è austero, e l'altro invece è più giocoso, che ascolta i Beatles, insomma, è già più di mondo. Qual è l'inno che sta cantando? Sto cantando gli Abba. Questo era sono recitati in maniere opposte, perché Anthony Hopkins ha uno stile che qualunque cosa lui faccia è teatrale. C'è un momento in cui spegne una candela girando la mano e sembra un gesto incredibile, che ogni cosa che fa lui la fa così, è come recita, è teatrale in ogni cosa. Mentre invece l'altro, Jonathan Pryce, è terra in quello che fa, cioè il suo stile di recitazione è di nascondersi, di far sembrare che non sta recitando, che sta leggendo le battute in maniera molto spontanea, ma in realtà ovviamente non è così. Per cui si scontrano questi due modi diversi di abitare la scena, con due personaggi effettivamente opposti, due visioni di mondo opposte. Insomma, questa cosa a me mi ha catturato. Allora, lo riguardo con questa interpretazione di Gabriele Niola. Poi mi piace moltissimo questa cosa che secondo te è stato Sorrentino a dare un po' di, po' di boost in questa ricerca artistica di film. Chi vedrà I Due Papi si renderà conto che c'è proprio una sorrentinata, sì. Cioè a un certo punto si vede che i papi hanno questa specie di orologetto che gli dice che devono camminare. E sì, il contrasto tra la Cappella Sistina, la sacralità del Vaticano e nip, devi fare i tuoi passi del Papa, è una cosa proprio puro sorrentinismo. È vero, una sorrentinata, mi piace moltissimo. Allora, per chi non avesse visto I Due Papi, è su Netflix. Invece adesso, poco a poco, su Sky, il venerdì sera, The New Pope, andate avanti a vederlo se avete visto i primi episodi, perché appunto c'è questa evoluzione di cui non possiamo dirvi niente. grazie a Gabriele Niola. A presto, grazie alla prossima. Grazie mille, Gabriele. Allora, noi ci interrompiamo per un attimo, viabilità, ma poi parliamo ancora di serie TV, perché questo è stato il fine settimana, quello scorso, è stato quello dei Golden Globes, quindi dobbiamo un po' andare a capire quali sono state le serie migliori dell'anno. Ma quindi tutti convocati anche nel weekend? Anche la domenica, dopo le partite, dopo le corse, le moto, le auto, beh, poi arriviamo noi. D'altra parte sono quasi 20 anni che vi raccontiamo lo sport. 20 anni, come eravamo giovani. Siamo Giovanni Capuano, Carlo Genta e Pierluigi Pardo. E tutti convocati il weekend vi aspetta ogni domenica a partire dalle 17, naturalmente in diretta, su Radio 24. RadioTube Social Village. E anche qui sono quasi 20 anni che vi si raccontano gli spettacoli su Radio 24. Ero molto giovane. Sono passati 20 anni, quasi a marzo per me, ma ero molto, molto, molto, molto giovane. Diciamo così. Allora, vi ho promesso che avremmo parlato di serie TV e io inizierei parlando di questa serie estremamente premiata. Eccola qui. Avete presente quando un ragazzo che vi piace vi manda un messaggio alle 2 di notte di martedì chiedendovi se può passare a trovarvi e voi gli avete detto che siete rientrate da poco, perciò dovete alzarvi dal letto, bere mezza bottiglia di vino, entrare nella doccia, depilarvi dappertutto, indossare in fretta qualcosa di provocante e aspettare che arrivi e suoni il campanello per poi aprirgli la porta come se aveste quasi dimenticato del suo arrivo? Oh, ciao. Ehi. E iniziate a darci dentro all'istante? Allora, chi l'avrà vista l'ha riconosciuta subito, è la protagonista di Fleabag, serie di Amazon Prime Video, premiata, premiatissima. Insomma, non si riesce a non premiare Fleabag. L'ho detto lo scorso weekend, o se preferite, secondo il fuso orario, l'inizio di questa settimana, insomma nella notte tra domenica e lunedì, sono stati assegnati i Golden Globe. Un tempo si diceva l'anticamera, l'anteprima, l'aperitivo degli Oscar per il cinema e per le serie TV. Io mi vorrei concentrare in particolare sulle serie TV, con il channel manager di Iris, di 20, e uno dei due fondatori di serialminds.com, Diego Castelli. Bentornato, Diego. Ciao, buongiorno. Allora, non si può parlare... Hai sentito che ho detto bene Golden Globes? Che non ho detto Emmy? Ho visto. Che non ho detto Emmy, che ogni tanto... Che io mi confondo, un premio... Vabbè, dopo tutto sono quella che confonde Orso d'Oro, Leone d'Oro, Palma d'Oro, li dico a caso e anche... Ma poi tutti gli ultimi premi li ha vinti Fleabag. Esatto, tanto comunque Fleabag ha vinto tutto. Allora, questa storia di questa trentenne... un po' scombinata, inglese, alle prese con avventure assurde, una certa libertà di costumi e una lingua taglientissima, niente, piglia tutto anche stavolta? Sì, prende tutto anche stavolta. Tra l'altro la storia di Fleabag è particolare sia dal punto di vista appunto narrativo sia dal punto di vista produttivo, perché è una serie che adesso è arrivata alla seconda stagione, che è arrivata 3 anni dopo la prima, e pare che non ce ne sarà una terza, perché il bello è che dopo aver vinto tutti questi premi continuano a chiedere a Phoebe Waller-Bridge se farà la terza stagione, cosa che sembrerebbe normale, no, per una serie che vince tutti questi premi, e lei dice no, non la vuol fare. Ma secondo me la convinceranno. Non lo so, è vero che lei adesso ha tantissimi progetti in ballo, scriverà il nuovo film di 007, è veramente sulla cresta dell'onda, e quindi per un progetto che per lei è così personale, anche forse banalmente aspetta quei 3-4 anni in cui gli verrà di nuovo voglia. Ah, quindi tu dici prima stagione 3 anni, seconda stagione magari quando chi lo fa non gli viene voglia un'altra volta di fare Fleabag, non si sa. Comunque, e l'altra particolarità di Fleabag è che se noi andiamo a leggere effettivamente quello che succede, e l'hai letto tu, non è che sia così originale di per sé, cioè è la storia di una ragazza inglese sui 30 anni che affronta la sua vita romantico-sessuale e con i suoi genitori, che anche loro sono un po' particolari, e vabbè, quindi non c'è un'originalità di fondo. Però basta veramente mezzo episodio di Fleabag per rendersi conto di quanto invece originale il modo in cui sono trattati questi argomenti, a parte da una prospettiva estremamente femminile, che comunque vediamo ancora abbastanza di rado, soprattutto se pensiamo a una prospettiva femminile che non è tanto una protagonista donna, che a cui però vengono magari assegnate parole scritte da uomini. Questa è la protagonista, l'attrice protagonista è anche la persona che scrive la serie, e si vede tanto, perché riesce effettivamente a metterci dentro tutto questo vissuto personale e questa riflessione anche sulla società contemporanea, sul ruolo della donna. Quindi, oltre ad essere estremamente divertente proprio così a livello spicciolo, cioè da guardi e ti diverti, è una serie che è diventata importante, pur essendo una serie piccolina tutto sommato, è diventata importante per quello che rappresenta anche in un preciso momento storico in cui si cerca di dare nuovo spazio alle voci femminili nuove, e la voce femminile in questo momento più forte, più divertente, più centrata e più riflessiva è quella di Phoebe Waller-Bridge. Con lei altre voci straordinarie, quella di Rachel Brosnahan, la fantastica signora Maisel, che però è stata sconfitta sia come miglior attrice sia come miglior serie. Ai noi, Russian Doll, Dead to Me, insomma un sacco di serie al femminile molto interessanti. Però tornando a Fleabag, la matrigna di Phoebe Waller-Bridge è Olivia Colman, che invece è la migliore attrice nella serie drammatica The Crown. Qui io contenta, Sì, anche, e tra l'altro è un anno clamoroso anche per Olivia Colman, che ha vinto l'Oscar per La Favorita a febbraio, e poi tempo qualche mese si va a vincere il Golden Globe per una serie TV, quindi anche per lei proprio un'annata da ricordare per sempre. E io sono d'accordo con te, nel senso che curiosamente la terza stagione di The Crown è stata quella in cui la figura della regina forse è stata un filino meno centrale rispetto alle prime due stagioni, perché si è dato tanto spazio anche ai personaggi che lei ha intorno, a partire dal marito, passando per ministri, la sorella e quant'altro. Allo stesso tempo però è riuscita a trasformarsi in quella che per noi è la regina di adesso, cioè un'istituzione vivente, mentre le prime due stagioni con Claire Foy era ancora una donna a cui era stata, diciamo, messa addosso questa responsabilità, e nella terza stagione lei diventa proprio l'istituzione, diventa la corona, in un modo che a tratti è perfino sgradevole, cioè perché vero, in alcuni momenti sembra una persona incapace di empatia. E però poi ci sono i momenti in cui lei è da sola, e sono i momenti in cui in qualche modo si lascia andare, la lacrimuccia qui, l'espressione fatta in un certo modo da un'altra parte, perché lei quando è in mezzo alla gente, in mezzo alla gente vuol dire anche in mezzo ai suoi familiari stretti, deve mantenere un contegno su cui si regge fisicamente l'impero britannico, non so come dire, e invece solo quando è da sola riesce a lasciarsi andare un po', e queste sfumature sono state rese benissimo dalla Colman, che tra l'altro è una donna simpaticissima, lo sì, si vede proprio quando sì, riceve sì, i premi. È vero. Poi c'è anche secondo me il fatto, una donna che comincia a ricevere così tanti premi a 45 anni, si vede che se li gode proprio. Sì, cioè secondo me c'è proprio la consapevolezza del percorso che ha fatto, cioè non è Anna Paquin che lo vince a 12 anni. Ecco, no, quello è proprio... Ha lavorato, e adesso è mio. A 45 anni, però se la gode. Ma infatti alla cerimonia degli Oscar, quando gli avevano dato l'Oscar, a parte che pare che fosse un film ubriaca, ma... Ancora meglio. Sì, aveva fatto un discorso meraviglioso, proprio di una spontaneità straordinaria, perché dice 45 anni, arrivo così, comincio a fare successo adesso, a lei me la godo tutta. Ho detto ancora meglio, qualcuno penserà che tifo per l'alcolismo, io sono poco più che cioè bevo pochissimo, quindi ragazzi era solo per dire che era simpatica. Metto le mani avanti. Basta poco, diciamo, bicchierino. No, a me basta niente, non sono abituata. Allora, vabbè, molto premiato anche Chernobyl, miglior serie, miniserie o film televisivo, perché come sapete appunto inglobano varie categorie, anche miglior attore non protagonista con Stellan Skarsgård. Ma io vorrei parlare di questo Succession. Allora, oggi tu che sta andando in onda in questo periodo su Sky Atlantic, che insomma è stata è praticamente iniziata a ottobre del 2018 su Sky Atlantic. Quando tu oggi sulla tua pagina Facebook hai detto che avresti parlato di Golden Globe in radio, c'è stato subito la polemica su Succession. Cioè, non sono tutti d'accordo. A te invece Succession piace. Mi dici qualcosa di più di questa serie? Io sì, Succession l'adoro e sono particolarmente contento che un po' da outsider sia arrivata la vittoria, tra l'altro con una seconda stagione, che i Golden Globe spesso amano premiare le prime stagioni, le prime volte in cui un personaggio compare, così anche per fare un po' gli alternativi, no? Seconda. E è una serie che anche questa sulla carta sembrerebbe non così accattivante, perché alla fine si parla di una famiglia, Succession, cioè la successione, perché c'è un capofamiglia miliardario che ha un impero dei media, e in qualche modo nella prima stagione si vede che lui ha un problema medico, una specie di ictus così, e parte la guerra tra i figli per chi deve essere il suo successore. Quindi si parla di drammi familiari immersi in un mondo soprattutto, diciamo, di finanza, grandi aziende, quindi di per sé, diciamo, già una cosa sentito, che, quindi bisogna fare qualcosa di originale. Quello che colpisce però è che hanno messo insieme un cast di attori e gli hanno dato dei personaggi che sono semplicemente eccezionali, perché le dinamiche che si creano all'interno di questa famiglia ci fanno dimenticare immediatamente che si parla di finanza, eccetera, perché ogni personaggio ha veramente una, e sono tanti, perché i figli di questo del capofamiglia sono parecchi, però ognuno ha una personalità così cesellata a proprio veramente al millimetro, per cui dopo uno o due episodi di spaesamento, perché sono tanti, poi improvvisamente sono tutti meravigliosi, perché ognuno lavora chiaramente per se stesso, però allo stesso tempo cerca di sembrare comunque sempre il figlio migliore di tutti, che vuole tanto bene al papà, e invece tutti sono lì per cercare di prendere un pezzo della torta. Quindi è una serie che trasmette un disagio clamoroso, perché spesso e volentieri, soprattutto perché il capofamiglia, che poi nella seconda stagione un po' si riprende, è un vigliaccone, perché li mette anche uno contro l'altro proprio per vedere chi esce vincitore da questa cosa, crea un disagio pazzesco, perché ci si immedesima in personaggi che si sentono in una competizione veramente da quando si alzano la mattina finché vanno a letto la sera, e questa roba è straziante. Tra l'altro ha vinto il Golden Globe Brian Cox, che è il capofamiglia, certo, l'attore che fa il capofamiglia. E io gliel'avrei dato a lui, perché c'è il suo, che non è il primo genito, tipo il secondo genito, che però è un po' se dovessimo ci scegliere un protagonista della serie, forse sarebbe lui, che è interpretato da Jeremy Strong, che è bravissimo, perché è un personaggio che ha una ex tossicodipendenza, ma non ci ricade, ed è il personaggio che più di tutti incarna questa continua tensione tra voler essere il migliore e voler essere il successore, e continuamente essere cornuto e mazziato dal padre. E però veramente ogni due episodi si sceglie un personaggio preferito nuovo, perché perché ce n'è uno che si inventa la peggio stupidata per cercare di salire al trono, chiamiamo così. Tra l'altro abbiamo parlato dei figli, ma uno dei personaggi migliori è il marito della figlia, che è uno che vorrebbe far vedere di essere bravo in tutto, non è bravo in niente, è un incompetente straordinario, ma il suo continuo tentativo di farsi vedere è comicissimo, per cui è una serie che ha anche tanti toni, ci sono dei momenti di dramma totale e dei momenti in cui si ride, ma si ride di gusto, perché sono buffi, perché sono goffi, perché ogni volta che cercano di vincere qualcosa la perdono. Quindi è una serie che ha veramente tanto, in cui c'è tanto da scoprire, al di là di quello che si può vedere al primo colpo, in cui magari è un po' grigio, sono tutti in giacca e cravatta, può spaventare un po', ma garantisco che una volta che sei dentro poi non ammali più. È come hanno fatto appunto i giurati dei Golden Globe, che la prima stagione non l'hanno premiata, ma poi alla seconda ha fatto il botto. Allora Diego, noi ci risentiremo presto, perché ti dovrò rapire per farci raccontare tutte le serie da aspettare nel 2020. eventi. Quindi segnati un sabato disponibile per venire da noi in radio e ti interroghiamo, proprio prendiamo gli appunti su tutte le cose che dobbiamo vedere in arrivo per questo fine inverno e prossima primavera, va bene? Va benissimo. Grazie, grazie a Diego Castelli, serialminds.com. Ricordatevi il sito, così poi andate anche a spulciare ogni volta che vi interessa una serie cosa ne scrivono loro, che sono bravissimi. Una breve pausa e poi parleremo di... No, non ve lo dico ancora, però cantiamo, un pochino cantiamo tra poco. Radio Tube Social Village. E la prossima settimana ci saremo anche noi di Radio Tube in diretta da Vicenza Oro. Sto perdendo la voce, non sono più abituata, mi sono riposata troppo nelle ferie. Ci saremo anche noi di Radio Tube in diretta da Vicenza Oro. Io ho già paura, ho paura per il mio portafogli, non per altro, perché insomma una certa passione. Vabbè ragazzi, non ci distraiamo. Abbiamo parlato di serie televisive, cioè The New Pope, con Sky Atlantic, e il film sui due papi, che invece è su Netflix. Quindi la passione per i papi in questo periodo, così stranamente ci siamo chiesti il perché, e Gabriele Niola ci ha dato un'ottima spiegazione. La sua spiegazione mi è piaciuta moltissimo. Non l'avete sentita? Beh, c'è il podcast. E poi abbiamo analizzato un po' quello che è successo nei Golden Globe questa settimana, in particolare per quanto riguarda le serie TV. Ma rimanendo in televisione, abbiamo parlato molto di piattaforme satellitari oppure digitali, ma andiamo invece alla TV, quella generalista, perché ieri sera c'era la sfida, c'era il Grande Fratello e c'era il cantante mascherato. Ci siamo, ci siamo, ci siamo. Copro ancora la visuale. Siamo pronti, nascondo, vai, vai, vai, vai, io nascondo tutto alla vista. Ti prepari un panino mentre guardi la TV. Anche tu. Allora, il primo cantante del cantante smascherato a essere stato smascherato è stata Orietta Berti, che era mascherata da unicorno in questo talent, ma non so, questo show in cui ci sono notissimi cantanti che indossano enormi maschere, le voci sono un po' modificate, ma insomma effettivamente Orietta Berti la si riconosceva abbastanza subito, infatti è stata subito smascherata. Allora, com'è andata ieri sera? Il cantante mascherato ha debuttato col 20,9%, 4 milioni, la seconda del Grande Fratello VIP, il 16,8% con 2,9 milioni. Poi peraltro il Grande Fratello VIP è andato avanti tantissimo, è stato molto molto lungo, quindi la vittoria di Rai 1 mi sembra abbastanza netta. Vorrei sapere cosa ne pensa di questo cantante mascherato che sui social era stato era molto atteso. Adesso non credo che abbiano fatto comunque un'ottima opera di social media managing su questa trasmissione di Rai 1. Vorrei sapere cosa ne pensa di questo cantante mascherato, ma anche di altri cantanti di cui parleremo tra qualche istante. Un altro amico di Radio Tube, lui tra le altre cose è il fondatore di Webbo.it, cioè Webbo.it. Sono molto molto molto contenta perché sta andando molto bene, però scrive anche sul Fatto Quotidiano, su TV Blog e su Spy. Giulio Pasqui, ciao Giulio. Ciao Marta. Allora ti chiedo com'è andata, tu li hai indovinati tutti i cantanti mascherati già? Ma allora, credo di sì, ma in realtà ci saranno delle sorprese, perché qualcuno in realtà forse non l'abbiamo azzeccato. Però non ero così entusiasta davanti a un programma televisivo da un sacco di tempo. Ah, devo tu dire. Sei uno di quelli che sono divertiti. Sì. Bene, bene, bene, bene. Secondo me c'era un po' voglia di novità in televisione. Questo è il format The Masked Singer più di grande successo in tutto il mondo. Insomma, ha avuto un grandissimo successo, è nato in Corea e poi è esploso nel 2019. E secondo me è stato davvero una... è una novità azzeccata che la televisione... anche italiana aveva bisogno, perché insomma si vedono sempre gli stessi formati, sempre le solite facce che girano, finalmente e invece delle facce vediamo le maschere stavolta. Sì, poi devo dire che hanno fatto un bel lavoro sulle voci, le hanno mascherate bene. Non so se Gianmarco in regia hai sentito, sai, fanno dei lavori interessanti su queste voci. È lui il nostro mago del suono, io lo chiamo Mago G. Gianmarco, cioè non è male, perché effettivamente bisogna lavorarle un po' queste voci, perché deve essere il meno possibile, perché sai, la maschera è facile, ma il suono, però sono bravi, sono stati bravi, dai. Forse il problema è la troppa riconoscibilità delle voci, perché ovviamente hanno scelto personaggi molto importanti, conosciuti sì. da tutti, e insomma Oretta Berti era stata chiamata subito, infatti. Anche gli altri, ci sono delle voci molto riconoscibili, c'è chi parla di Albano addirittura sotto il leone. Beh, insomma, devo dire Albano, che ieri facevano il coretto Albano, il pubblico, diciamo che l'Albano secondo me è abbastanza assodato. Però devo dirti una cosa, io ero convinta, adesso io non so se li ho azzeccati, non dico quali sono secondo me, perché lasciamo, però confesso che io e con un po' di amici, e credo che l'abbiano fatto in tanti, ci siamo fatti il giochino di mandarci i nomi su WhatsApp, questo. Io mi sarei aspettata magari qualcuno da Ora o Mai Più, ad esempio. Quello è vero. Chi lo sa, magari potrebbe pure esserci qualcuno sotto una delle maschere, ecco. Però insomma non l'hanno preso neppure a Sanremo. Qua volevo arrivare. Allora, tu hai fatto questo pezzo sul fattoquotidiano.it che mi ha molto divertito, perché allora Sanremo, lista dei 22 cantanti, lista che viene svelata, poi polemiche perché è stata svelata troppo presto, e poi ancora l'intervista a Repubblica con cui Amadeus conferma i 22, allora tragedia, succede che tanti si arrabbiano, la sera del 6 di gennaio, quando vengono rivelati i nomi, Amadeus dice i 24 campioni, ma come i 24 campioni, non dovevano essere 22? E ne sono stati aggiunti due, ma poi chissà se era già un'idea di prima, questo non lo possiamo sapere. Detto questo, ci sono un sacco di esclusi e un sacco di cantanti ovviamente che non sono stati presi, almeno altri, il conto l'hai fatto tu, 176 avevano presentato la candidatura, non pochi. Allora, secondo te chi sono stati i più delusi? Perché ormai con i social reagiscono, si lamentano, si possono anche... racconta Giulio. C'è Marcella Guerra Bella che è su Piede di Guerra. Arrabbiata. No, è simpatica perché... Marcella, che poi voglio dire, io sono anche andata a vederla dal vivo, è ancora fortissima, arrabbiata. Arrabbiata perché lei voleva festeggiare i suoi 50 anni di carriera da Montagne Verde sul palco dell'Ariston. E tra l'altro aveva proposto due canzoni, una scritta dal fratello Gianni Bella, e quindi lei sperava di poter contare anche sul suo amico Amadeus, con cui ha condiviso l'esperienza d'Oro e Maggio in giuria, e invece nulla da fare. Infatti lei ha scritto: subire un'ingiustizia fa sempre male, soprattutto quando arriva da chi non te l'aspetti, fa ancora più male. Insomma, lei l'ha presa sul personale. Assolutamente. Anche i due vincitori di Oro e Maggio non è che l'hanno presa benissimo. Lisa, che era la prima vincitrice, anche lei ha fatto un tweet molto amaro dicendo che Ora o Mai Più dovrebbe diventare Ora e Mai Più. Insomma. Oh, povera, no, mi dispiace. È bella delusa. Mentre Paolo Vallesi, vabbè, il secondo vincitore l'ha presa molto più con ironia, diciamo, e con classe, ha detto che sarebbe ipocrita se non fosse deluso, però insomma non ha rancori verso chi ha dovuto fare delle scelte, anche perché 24 sono i posti, 200 le canzoni proposte, insomma qualcuno fuori ci dovrà pur rimanere. Per forza. Allora, poi ci sono anche delle storie un po' più tristi, non voglio raccontare insomma la storia in particolare della canzone di Roberta Faccani, insomma una storia molto triste che poi insomma finisce nella cronaca, allora non voglio toccarla. Gerardina Trovato, che si meriterebbe di tornare sulle scene, scrivi che aveva mandato 24 canzoni. Eh sì, l'ha dichiarato lei in un'intervista tra l'altro molto bella rilasciata a Mattia Marzi sul Messaggero. Lei ci teneva molto a una seconda possibilità, insomma è fuori dai giri da un po' di tempo, tra l'altro ha raccontato pure di aver vissuto un periodo personale non proprio positivo, e ha mandato 24 canzoni, tutte quelle che aveva scritto in questo periodo un po' difficile, e neanche una è stata scelta. Insomma, anche lei è molto dispiaciuta, perché dice che non ha neppure i soldi per prodursi le canzoni da sole, quindi sperava in una grande opportunità come quella che Sanremo offre, per riscattarsi, insomma. Questa è stata una vicenda molto triste. Perché è un ottimo talento che avrebbe bisogno appunto di una produzione, di qualcuno che la riprendesse per mano. Allora, raccontaci un po' ancora di quelli che hai scoperto essere stati i delusi, un po' perché l'hanno scritto sui social, un po' perché l'hai saputo tu, insomma. Giulio, chi è che è stato ancora escluso da Sanremo? C'era una lista, appunto, come dicevi tu, molto lunga. C'erano alcune collaborazioni interessanti. Si parlava, per esempio, del trio composto da Grazia Di Michele, Marinella Nave e Rosanna Casale, che insomma mi sembrava davvero molto interessante. Così come la collaborazione tra Silvia Mezzanotte e Dionne Warwick, che insomma sono due voci molto, molto forti. Poi, vabbè, appunto, c'erano di tutto e di più, dai giovanissimi come Michele Prati, la cui esclusione ha indignato lui i suoi fan, alle vecchie glorie come Alberto Fortis o Mietta, per esempio. La lista, se Mietta ti ha sentito che l'hai definita vecchia gloria, perché Giulio Pasca è un ragazzino. E poi però ci sono anche dei nomi che sulla carta sarebbero stati comunque forti anche quest'anno. Beh, per esempio Fred De Palma, lui è reduce una volta ancora, che è stata la canzone più scaricata del 2019 e che avrebbe debuttato a Sanremo, perché non c'è mai stato in gara. Sarebbe stato, secondo me, un nome molto molto interessante, così come Noemi, per esempio, che aveva proposto un brano scritto da Fabrizio Moro, perlomeno così si mormora, o lo stesso Michele Prati, che anche lui cerca un po' un riscatto dopo una vicenda personale molto delicata, insomma. Diciamo così. Allora, intanto io ho lanciato una bottiglia, la borraccia dell'acqua, spero di non aver fatto danni. No, non ho fatto danni. Allora, ho fatto danni io, forse. No, li ho fatti io, perché allora, la verità è che io stavo per dire una cattiveria e sono stata punita per la cattiveria che stavo per dire proprio ancora prima di dirla. Perché, no, poi io le voglio cioè mi sta simpatica, ma è vero che ci aveva provato anche quest'anno Bianca Zei? Così si dice. Dai, vedi, ecco, capito perché ho rovesciato l'acqua, che quasi, vedi, che stavo facendo proprio un danno in studio. Credo ci provi un po' tutti gli anni, poverina. Tra l'altro l'ultima volta aveva proposto un danno molto carino, me lo ricordo ancora. Sono stata cattiva. Male quest'anno. Poi hai scritto Lorenzo Fragola, Chiara Galiazzo, Noemi con un pezzo scritto da Fabrizio Moro. Tutte persone molto, molto forte. Rocco Hunt, Lorenzo Licitra, che effettivamente è un po' sparito dai radar, perché a volte vincere i talent non garantisce proprio nulla. Giusy Ferreri, Giovanni Caccamo, questi insomma, Stash, Irama. Shade, sono tutti nomi molto molto molto forti, il che mi fa spingere a chiederti effettivamente, secondo te, al netto delle canzoni che sentiremo venerdì, perché venerdì ci sarà l'anteprima per la stampa delle canzoni di Sanremo, cosa te ne è parso di questo cast annunciato? Allora, secondo me alla fine contano le canzoni, quindi sarò molto curioso venerdì di ascoltare i brani, e alla fine confido in Amadeus, insomma, sono sicuro che abbia fatto le scelte giuste. È un cast molto variegato, devo dire, sono molto curioso di vedere per esempio Elettra Lamborghini, che sì, è un nome che non mi aspettavo, potrebbe essere la prima a twerkare sul palco dell'Ariston, mi divertirebbe molto cosa. Sì, anche se la sua prima uscita è stata vestita praticamente da suffragetta. Molto anche elegante, sobria. Sì, molto elegante, sobria, vabbè, vedremo. E poi ci saranno ancora mille polemiche, ma delle polemiche avremo un sacco di tempo per parlare, ci sarà tempo. Allora, Giulio, grazie per essere stato con noi e per avere così sbirciato su tutti i social per capire se qualcuno aveva confessato di avere mandato una canzone a Sanremo e non ha nascosto la sua delusione, come abbiamo capito. Vabbè, quest'anno tocca a loro, chissà, al prossimo anno la fortuna girerà anche per questi prima che sono tutti, sì, dai, che sono stati esclusi. Grazie a Giulio Pasqui, a presto ancora RadioTube, ciao Giulio, grazie. Grazie, è sempre un piacere, grazie. Grazie Giulio, allora 16:45 in punto, quindi io direi di andare a sentire come sta andando la situazione su strade e autostrade. Abbiamo ancora un ospite nel nostro RadioTube Social Village, poi un'ora di RadioTube Social Network, un sacco di cose, a tra pochissimo. RadioTube. RadioTube Social Village. Eccoci qua per l'ultimo spicchietto del nostro RadioTube Social Village. Ah, cavoli, non ho letto il messaggio di Cinzia che voleva due parole sui Miserabili. A me è piaciuto molto, ha scritto Cinzia. Dobbiamo parlare anche un po' di queste serie che vanno in onda sulle TV generaliste. Prometto nelle prossime puntate, questa volta ci siamo concentrati un po' di più sulle varie piattaforme, sui successi internazionali. Ma adesso vorrei fare un piccolo salto indietro nel tempo. Allora, un film di qualche annetto fa, vabbè, ve ne faccio sentire un pezzettino e chissà se ve lo ricordate. E Michaud chi porta? Un collezionista di boomerang, figurati. Ottimo. A cena mercoledì sera? Non c'è problema, sarò da lei mercoledì sera, salvo imprevisti. Vieni con me, vedrai, sono favolose quelle cene. Favoloso invitare un infelice per sfotterlo tutta la sera. Le sarò sembrato un cretino al telefono. Sì. Le sarò sembrato un cretino al telefono? Sì, vabbè, ve la ricordate, La cena dei cretini? Era un film che ha avuto un sacco di successo, ma tratto da una pièce teatrale di altrettanto successo. Era già stata portata al teatro in Italia e adesso torna. Sono molto contenta di poter mandare una merda a un amico di RadioTube e di Radio 24, perché so che è molto affezionato e noi gli vogliamo molto molto bene. Benvenuto a RadioTube a Nino Formicola, ciao! Ciao Marta, buongiorno a tutti. Allora, a tutti. Intanto dal 16 al 19 gennaio sei qui a Milano, al Teatro Nuovo. Sì, e poi dopo sono a Roma, Napoli e Torino. Vabbè, insomma, le città più importanti. Sì, rinzoliamo un po' per tutta l'Italia per questo primo anno, poi l'anno 21 la riprenderemo, visto che sta andando dalla stragrande. Oh, che meraviglia! Che cos'è per te La cena dei cretini? Perché è una pièce importante per te? Beh, sì, perché è una sorta di karma, evidentemente, perché mi è stata chiesta di farla, e questo faccio anche la regia, perché in realtà questa commedia l'abbiamo fatta io e il mio socio Andrea già due volte, nel 2000 e nel 2010. Evidentemente io ogni 10 anni devo fare La cena dei cretini, se no per contratto. Certo, beh, non è male, ogni 10 anni uno riprende una pièce che però a questo punto vuol dire che è senza tempo. Assolutamente sì, è una delle commedie comiche più da ridere del mondo. Cioè, io che per 40 anni abbiamo fatto teatro scegliendo fior da fiore le commedie più divertenti, le due più divertenti in assoluto sono state Rumori fuori scena e La cena dei cretini. Sono due classici senza tempo, perché sono dei meccanismi comici ineluttabili, uno non può non ridere, assolutamente. Un gruppo di francesi benestanti organizza periodicamente, diciamo, delle cene, e ognuno dei commensali deve portare a casa lo scemo peggiore. Ognuno porta un cretino, tra virgolette. Ecco. E chi ha portato il più cretino di tutti vince il premio. E la sera che tocca a me di portare il cretino, mi viene un colpo della strega, io resto in casa bloccato con questo qua che me ne fa di tutti i colori. Mi fa litigare con la moglie, con l'amante, mi chiama all'ufficio delle tasse in casa, fa dei danni incommensurabili, ma tutto in perfetta buona fede. La cosa bellissima di questa commedia è che è da ridere, ma è una commedia carinissima, perché Pignoni, il protagonista, è proprio un buono assoluto. Infatti, a questo giro il protagonista sarà Max Fisu, che io ho scelto perché è lunare, un personaggio lunare e poi gigante buono, è quello che al pubblico fa tenerezza, simpatia, e devo dire che funziona come una spada, devo dire che c'è molto da ridere, molto. Ecco, no, sono molto contenta, anche perché me ne hanno parlato già benissimo. La scelta di Max Fisu, ovviamente avendola fatta due volte con il tuo sodale di una vita, Andrea Brambilla, non era facile trovare qualcuno a cui riaffidare la parte. No, infatti è piuttosto difficile. Devo dire che però io con Max ho avuto ultimamente un paio di esperienze teatrali e siamo diventati amici, ed è una persona veramente buona. E per fare Pignon, per fare questo cretino, tra virgolette, devi essere un buono, perché devi essere la persona che cerca sempre di fare del bene e sbaglia, non è che sbaglia a farlo, crea senza volere dei danni incommensurabili. E serve una persona lunare, serve una persona poetica. In questo caso poi Pignon è uno che fa i modellini con i fiammiferi, ricostruisce il ponte di Brooklyn, quindi figurati un personaggio del genere. Serve proprio una persona lieve, e Max è una persona lieve. Devo dire che infatti la scelta mi ha fatto molto piacere, perché è risultata funzionante. Abbiamo già fatto parecchie date, e devo dire che il risultato è lo stesso che avemmo io e Andrea nelle due volte, che praticamente ho fatto 300 repliche già io della Cena dei Cretini, però questa volta è fatto in un'altra maniera, in un altro modo, però si vede ugualmente, assolutamente, tanto quanto l'altra volta. Mi fa molto piacere. Hai detto una cosa interessante: ci vuole una persona lunare e poetica, cioè sì, quando tu cerchi qualcuno con cui lavorare, cerchi qualcuno anche, cioè non solo che abbia delle doti d'attore, ma anche delle doti umane? Assolutamente sì, la gente non ha la percezione, però fare teatro è come fare una crociera in barca. E chi ha fatto una crociera in barca sa che cosa voglio dire, nel senso che tu per fare una gita in barca o una settimana in barca con gli amici devi sceglierti delle persone che hanno delle caratteristiche umane di un certo tipo, perché se no non ci si sopporta più, e quando non ci si sopporta più su una barca è grigia la faccenda, perché cosa fai, lo butti a mare o ti ci butti tu? Una tournée è la stessa cosa, bisogna scegliere delle persone che abbiano delle caratteristiche tecniche di un certo tipo, ma che nel frattempo siano anche persone disponibili, buone d'animo, cioè complici, perché veramente si crea una situazione per cui tu non devi mai in una compagnia creare la situazione per cui uno odia l'altro, perché diventa negativa la commedia che poi fai, perché poi tutto questo si vede sul palco. Anche se uno è un grande professionista, l'antipatia, l'odio che si crea in certe compagnie si vede. Quindi io scelgo sempre delle persone buone, cioè delle persone che sappiano stare in gruppo e sappiano mediare le situazioni, perché spesso e volentieri bisogna farlo, soprattutto in una tournée. Mi piace molto questa cosa della barca, perché effettivamente sennò l'alternativa è quella di gettarsi in mare e nuotare, e non ha senso. Mi fa capire questo, che il teatro è molto diverso da altri mezzi, perché è una questione anche di convivenza, di familiarità a lungo termine. Assolutamente sì, ma provate a pensare di essere in barca con uno che rompe le scatole perché questo non mi dà, questo mi piace, questo non lo voglio, questo non va bene, ma quello lì quel fastidio che mi dà, diventa una situazione da incubo. È una compagnia, è la stessa cosa, una tournée è la stessa cosa, perché tu ti ritrovi tutte le sere a lavorare con le stesse persone e andare magari a cena con le stesse persone, e provate a immaginare cosa vuol dire andare a cena con qualcuno con cui hai litigato. No, io con la mia, guarda, mi sto immaginando la scena, io con la mia proverbiale capacità di sopportazione sarei tremenda, non ce la potrei fare. Io sono peggio di te, quindi figurati, visto che ho la fama di quello che non si tiene dentro un cecio e dice sempre quello che pensa. Un po' è vero però, dai, un po' è vero, perché ti abbiamo visto in televisione in condizioni di grande sincerità in un noto reality show, è vero, però è stato anche apprezzato questo fatto, questo tuo fatto di essere sincero. Sì, perché io, essendo l'Isola dei Famosi, che peraltro ho fatto proprio per far capire che è morto Andrea, non ero morto anch'io, e perché la gente mi continuava a dire: ma adesso lavori ancora? Sì, c'erano come pago le bollette, scusatemi. Cioè non è che i comici sono miliardari, sono miliardari i presentatori, ma i comici no. Sì, davvero? Accidenti. Ma è molto semplice l'equazione, scusami, Se io sono in televisione e faccio il comico, tutte le volte che ci vado devo inventare uno sketch. Sapete questo cosa vuol dire? Far ridere dalla Val d'Aosta alla Sicilia tutte le volte? È uno stress che uno non si immagina nemmeno. E poi, per quanto uno possa essere un genio, così tanto non puoi produrre, no? Mentre invece un presentatore c'ha la cartelletta e dice le domande, fa le robe, può starci in televisione 365 giorni all'anno. Un comico no. Un comico può andare in televisione a fare qualcosa soltanto se ha un pezzo forte. E di pezzi forti non ne inventi uno al giorno, assolutamente, se no saremmo tutti a Hollywood, ma anche a Hollywood sono messi malino da quel punto di vista. Vabbè, neanche il conduttore radiofonico è ricco. Tranquilli. I conduttori televisivi. No, ma guarda, invece alla radio proprio stai sereno, che non è... Lo so, ho avuto un'esperienza recente. Va fatta per passione. Noi siamo persone normali. abbiamo parlato dell'Isola dei Famosi, però dai, hai avuto un'altra esperienza molto carina nei mesi scorsi da notaio tra i barzellettieri. Quindi alla fine comunque la TV è tornata a riconoscere il tuo talento, perché poi alla fine chissà... talento, vabbè, lascia perdere. Io lo posso dire, ecco. Vabbè, io comunque sono un artigiano, bella risata, questa è la mia verità. E diciamo che è stato Ezio Greggio che mi ha chiamato, mi ha fatto piacere in un ruolo che non è il mio, perché la vittima io non l'ho mai fatto, ho sempre fatto il carnefice. Di conseguenza mi sentivo all'inizio un po' spaesato, poi comunque era divertente e va bene così. D'altro canto, guarda, è inutile fare gli snob, fare quelli che... tutto quello che vuoi. Il problema è che alla fine, se non sei in televisione, non esisti. L'ultimo nostro spettacolo che abbiamo fatto io e Andrea era proprio basato su questo. Non ci sei, tu puoi fare in teatro le cose più belle del mondo, noi abbiamo fatto degli incassi stratosferici, delle cose meravigliose, ma non lo sa nessuno, non c'è competizione, quindi qualunque cosa tu faccia non la fai vedere in televisione, oggi non conta, purtroppo è così. Allora intanto parliamone alla radio, che così adesso Teatro Nuovo di Milano dal 16 al 19, La Cena dei Cretini, poi Roma, Torino, Napoli. Poi andremo anche in Calabria, per la prima volta in vita mia faccio delle puntate in Calabria dove non ho mai lavorato, sono molto contenta. Bello. Perché c'è un mio amico dell'isola che mi aspetta, che è a Mauris, mi aspetta Cosenza di conseguenza. E poi voglio dirti una cosa buffa. Dimmi. Visto che tu fai social network, social YouTube, sai che sto per diventare lo YouTuber più vecchio del mondo? Ma l'ho sentito più vecchio del mondo, non lo so. Però questa, io ti aspetto da YouTube. Prossima volta ti chiamo come YouTuber, allora. Volentieri. Dai, fantastico. Devo dirti che sta funzionando questa roba misteriosamente, però evidentemente, e la cosa più di soddisfazione è che i follower, che sono del mio socio Dredd, che è un ragazzo giovane, certo, mi hanno scoperto e mi coprono di complimenti. Vedi, ma pensa, da bravo questo. Ma cosa da ridere? L'anziano fa molto ridere, l'anziano è un comico. Il mio papà lo conosce benissimo. Grazie. grazie a Lino Formicola per essere stato con noi. Un abbraccio grande. La Cena dei Cretini a Milano e poi in giro per l'Italia. Noi ci troviamo dopo il giornale radio.